nonostante qualche forse sbavatura, forse numerose sbavature, eccetera, eccetera, il dibattito sia stato interessante e mi pare anche produttivo, anche se ci sono state delle mentalità forse diverse, troppo diverse, che si sono confrontate l'una con l'altra. Direi che però non è più produttivo a questo punto continuare il dibattito al livello a cui eravamo arrivati quando l'abbiamo chiuso questa mattina. Nonostante che ci siano numerose cose da dire, io per esempio ho ingingato anche Dapini, per esempio, eccetera, eccetera, avrei da intervenire nuovamente sul modello, non modello, queste cose qui, il rapporto tra modello, la filosofia della storia, tutte queste faccende qui, la presunta non modalità della storia degli inizi, no? Basta pensare alla storia sacra, queste cose qui. Ma non mi interessa, credo che non sia produttivo farlo. Invece mi interesserebbe moltissimo se si riuscisse in questa ora che resta, quindi con eccezionale brevità e insomma sinteticità, portare a quelli che ce l'hanno un'esperienza specifica, insomma, no? Proprio fattuale di ricerca, che in un modo o nell'altro possa rifarsi lato senso ai discorsi che sono stati fatti stamattina. Ecco, cioè, tutti voi probabilmente avete studiato, state studiando temi che ineriscono a questi problemi metodologici che stamattina abbiamo studiato. Se provassimo a fare un giro in cui ognuno cerca di illustrare, insomma, quello che sta facendo in questo senso e le modalità con cui opera, sarebbe molto bello. Prima di però passare a questo, l'amico e collega professor Del Grosso, che è l'unico sociologo dei tanti che avevano promesso di venire a questa riunione oggi della facoltà di sociologia, avrebbe piacere di fare alcune osservazioni dal suo punto di vista su quello che è stato detto, e mi sembra importante approfittarne, insomma. Quindi ti darei subito la parola, no, Gino, in modo che così, che poi deve andare via anche per questo. Poi devo andare via, comunque io sarò abbastanza breve. Vorrei mettere in chiaro un paio di cosette. Per quel tipo di incontri, purtroppo, vede solamente me, noi abbiamo l'intera facoltà di sociologia qui, e non è complicato che altri colleghi non siano interessati, perché il dibattito potrebbe essere molto più fruttuoso. Io vorrei fare un paio di osservazioni su come è emerso, ho cercato di capire io, in virtù della mia ignoranza sul campo specifico, questa attività sociale del Medioevo, di come vengono usati i concetti elaborati dalla sociologia. Io sono rimasto un pochino deluso, poi ho avuto una certificazione stamattina dal saggio di Mitterauer, si chiama così, quello che ho distribuito, non per la qualità della traduzione ottima, eccetera, ma perché veramente io non ritraccio, per la vita dell'esperienza della mia disciplina, uno stato degli studi sulla stratificazione sociale non lo vedo rispecchiato nei termini che usa Mitterauer. Cioè lui sembra dare la propria impressione di uno che riceve con mentalità da giurista una sistemazione logica che sia valida una volta per tutte, mentre non mi sembra di poter dire che gli studi sociologici e di stratificazione si trovino in questa situazione. Mi faccio riferimento a una cosa che ha detto lei stamattina, che se il sociologo propone in alternativa il concetto di classe, il concetto di centro, allora noi non dobbiamo citare in questo modo. Non mi sembra che mai sia venuto questo negli studi sociologici. Gli autori più che potuto citare sono il vecchio Sorokin, che è un rimasuglio dell'Ottocento, è uno che è vissuto nel nostro secolo, ma che in realtà ha tentato di fare, di riattualizzare i tentativi che facevano i grossi studiosi della positivistica, sostanzialmente. Qui non direi che sia assolutamente aggiornato come sociologo. Poi un'ulteriore osservazione per quello che può valere. Mi sembra di aver tolto cioè una presupposizione, però qui attribuisco ad altri idee che si siano raccolti e magari usati. Come se la sociologia fosse una scienza evidentemente della stasi o dell'immediato, mentre la storia si occupa di un processo evolutivo. Ora, un'occhiata alla storia del pensiero sociologico ci fa vedere in luce esemplare, mette in luce esemplare come tutti i concetti sociologici siano concetti che nascono in un momento di mutamento sociale e culturale, cioè servono a interpretare un mutamento, hanno tutti una dimensione processuale e non statica. Cioè, l'attribuzione di caratteristiche statiche alla struttura categoriale della sociologia è un'attribuzione che storicamente, secondo me, molto, molto limitata, cioè può valere per certi periodi della storia della sociologia, in particolare mi riferisco al funzionalismo americano dagli anni, grosso modo, tra i 40 fino agli anni tardi 50, eccetera, in cui veramente prevale una visione della sociologia come fotografia dell'esistenza. Però tutte le parti, in tutti gli ambienti più diversi della sociologia, questo non si verifica affatto, cioè la struttura categoriale che operiamo è sempre stata, cioè, elaborata esattamente sul concetto di mutamento sociale, perché in fondo quella relazione sociologica nasce solamente in momenti di mutamento, perché abbiamo bisogno di capire come si è passato da uno stato all'altro. Quindi c'è questa dimensione processuale che mi sembra molto importante. E quindi non riesco a capire, cioè, mentre sono perfettamente d'accordo con il discorso di Schiera, cioè distinzione tra concetto analitico e concetto per istituzione concreta, sono due cose diverse. Noi abbiamo un movimento di concetti che ci danno una certa lettura della realtà e che valgono in quanto la nostra ricerca è mossa da una relazione ai valori, cioè i valori del ricercatore, quando intendiamo scoprire che adesso serve una ricerca di interpretativa. E abbiamo anche il movimento dell'istituzione concreta. Ora, le contraddizioni e le dinamiche sono in ambedue i casi. Questo era. Sì. Io starei da tutto attento, cioè l'accetto l'uno molto vederiano che fa delle condizioni interpretative, l'idea antica. Sì, certo. Pinziano, però stai attento a non considerare i concetti sociologici come delle categorie statiche. Sì. In fondo, qui si è fatto dare riferimento all'idea di classe in Marx. Anche a me è ancora un'idea abbastanza ambigua. Ricordiamoci che Marx è morto quando stava scrivendo il 52° capitolo del terzo libro del Capitale, intitolato Le classi sociali, non ha scritto neanche una riga. Noi non abbiamo quindi una teoria compiuta una volta per tutte l'idea di classe in Marx. Tanto è vero, se andiamo a prendere il manifesto troviamo una concezione, se andiamo a prendere invece 18 gourmet che giungono a parte la lotta di classe in Francia, troviamo un altro uso analitico del concetto. Secondo me non è una confusione che fa Marx, ma è secondo l'obiettivo che si pone in ogni scritto, usa dei concetti che sono evidentemente sfasati rispetto ad altri tesi, perché insieme in quel momento, ma anche la stessa interpretazione del capitale, dimostra chiaramente come il concetto di capitalismo è un concetto ideatipico. No, questa presentazione del Grosso è utile, quantomeno in questo senso, no? Perché è così, noi storici, mi permetterei di dimmi anch'io insomma in questa categoria, in questo caso, probabilmente tendiamo a fare nei confronti della sociologia quella stessa operazione di appiattimento che i sociologi fanno nei confronti della storia, no? Per cui forse rendersi conto che anche la concettologia sociologica o politologica è un filo più mossa, insomma, no? C'ha qualche ondina, eccetera, di quanto noi non ci aspettiamo, ecco. Forse ci è un altro motivo in più per sollecitarci a chiederci se non sia il caso, insomma, di pensarci sopra. Sì. Poi cosa l'ultimo, mi ripeto come diceva lei, l'eventuale contraddizione tra l'uso del termine classe e il termine ceto. Secondo me una chiarificazione terminologica è utile non solo tra di voi ma anche tra di voi storici, però se non sappiamo di cosa parliamo. Sì, sì. Però quella di proprio nell'opera di Weber, come anche uno dei miei favoriti. Usiamo il concetto della Weber stessa di caso di usare il concetto di classe o il concetto di ceto secondo lo scopo dell'analisi che ha in mente in quel determinato momento, cioè per capire determinati svolgimenti storico-sociali delle informazioni sociali mi può essere utile a usare l'ottica della classe sociale se voglio percepire certe cose, oppure posso anche scendere di vedere sotto l'ottica del ceto, quindi sull'aspetto del prestigio, eccetera, per quali determinati altri aspetti, cioè non ontologizziamo le categorie sociologiche, sono strettamente legate alla. Questo mi sembra giusto, però per esempio nel significato in cui lo uso io, mi riferisco all'esperienza concreta, ovviamente non avendo altri termini di riferimento da dare, che non l'esperienza che ne ho fatto, è del ceto accento all'aspetto di cristallizzazione. E non tanto l'aspetto di prestigio, cioè non è il prestigio che fa il ceto, a mio giudizio dopo un'analisi storica, diciamo, sì. Ma è il momento della cristallizzazione, proprio, cioè nel momento nel quale non subentrano più novità, insomma, in qualche modo, cioè questo è diventato così stabile, così uguale a se stesso, che a un certo punto può essere categorizzato, in qualche modo, ecco, questo è il senso di ceto. Nel modo che lo uso io, per questo devo dire sono d'accordo sull'affermazione che si debba farlo in base all'analisi che si fa l'uso. Ecco, l'importante è che dall'analisi risulti chiaramente in che accezione viene usato il concetto, perché io credo che ci sia dentro tanto la categoria del prestigio qui sembra di accennare più chiaramente lui, vero, quanto quella è invece della cristallizzazione in qualche modo della situazione. Ecco, per me significa poi soprattutto questo. Il prestigio è poi sempre fatto, è poi sempre frutto di cristallizzazione. Di cristallizzazione, cioè, sì, evidentemente. Sì, ecco, però ecco, a quel punto dicevo io è un prestigio contestato, e ad un certo punto la definizione muta, ecco, questo è il discorso, certo, che riguarda il ceto. Per quello che riguarda il processo, sono persuasissima di questa. Io semmai contestavo a Mitterauer di considerarla una categoria, dicevo che invece tutte e due hanno un aspetto dinamico, tanto la sociologia, però ecco, la sociologia davanti a un tempo breve, questo me l'ha confermato quello che ha dichiarato lui, un tempo breve nel senso che vuole rendersi conto del mutamento in atto, e il suo tempo breve è quello. La storia ha davanti il tempo lungo, l'analisi storica ha sempre davanti un tempo lungo, perché noi se l'applichiamo la categoria sociologica all'undicesimo secolo, abbiamo poi dietro tutti quegli altri secoli di storia che vengono. Ora io non vorrei aver dato l'impressione, per esempio, di credere alla teoria dei corsi, dei ricorsi, quando affermo, ma certamente almeno fino al Cinquecento c'è un tipo di meccanica, di dinamica sociale che viaggia sempre tra queste, a mio parere. Io poi dopo potrebbe cambiare, il mio occhio non va più in là perché non va più in là, dico dopo potrebbe cambiare, però io ho l'impressione che giochi sempre tra queste che io accennavo, che a me sono parte determinante, dal gruppo della classe politica al ceto in qualche modo. Ecco, con questo non intendo dire che questa sia una verità rivelata, ho avuto l'impressione che sia questa la dinamica che si ha. Bene, io voglio scusarmi con gli amici che abbiamo anticipato, perché abbiamo dato una notizia falsa prima, cioè abbiamo detto che cominciamo alle 3:30, invece abbiamo cominciato alle 3 per facilitare il riflusso, il deflusso, non so come dobbiamo chiamarlo, quindi in questo senso qui voglio spiegarmi. Adesso appunto solleciterei, se è possibile, se ci riusciamo, se ci riuscite voi che siete del mestiere, un'applicazione, ecco, più concreta un po' del dibattito di questa mattina, anche un minimo per assicurarmi, perché io dopo aver gettato questa specie di sasso invitandovi e così via, poi mi sono venuto un sacco di scrupoli, insomma, cioè anche stanotte mi sono svegliato prestissimo questa mattina, terrorizzato dall'idea di come qui c'è gente che viene da Roma, da Torino, da Trieste, e poi dopo, poveretti, andranno a casa delusi all'osso. Io vorrei che invece magari in questa ora e mezza o ora che resta provassimo a fare in modo di andare via meno delusi di quanto io non mi aspetti, perché mi spiacerebbe davvero. Quindi proviamo. Con le risposte della Gabriella. Ah no, io no, francamente, io contavo di no, perché non le chiude. No, appunto no, se mi riusciva. Anche perché sennò comunque chiude. Non sono particolarmente lucida, ma se mi riusciva, io contavo invece di cercare di raccogliere, di vedere che cosa c'era di unitario, nonostante le sbavature di cui accennava Piero, in quello che è venuto fuori da questo nostro discorso di questa mattina, perché a mio giudizio non ci sono poi state tante sbavature. Noi siamo abituati tra l'altro a confrontarci con una certa tensione dovunque noi siamo, e molti di noi qui si incontrano periodicamente, intendo dire, cioè una certa tensione di discorso, non tensione delle persone, le quali poi ritornano tranquillamente molto calme subito dopo che hanno aperto bocca, insomma, intendiamoci. Ecco, allora mi pareva invece che soprattutto nella seconda parte del nostro discorso ci fossero molti elementi di unità in quello che venivamo dicendo, dato quindi per scontato ad esempio quel problema di una approssimazione che è inevitabile. E però mi sembra che la cosa più bella ce l'abbia detto proprio il sociologo che se n'è andato, cioè che in fondo è in rapporto all'analisi che si fa l'uso, e questo secondo me è veramente una lezione da recepire. Però sono perché è la finalità che purtroppo questi nostri discorsi hanno sempre questo grosso svantaggio, comunque, che dico, ogni affermazione che si fa implicherebbe un seminario, insomma. Sì, cioè, sì. No, Weber, allora, ecco, prendiamolo per quella che ce l'ha data lui, e adesso senza voler dare la paternità di Weber, se vogliamo eliminare la paternità, però mi sembra che questo, ecco, possa rispondere un pochino alle perplessità, per esempio, che avanzavi tu, dei rischi che si possono o della necessità di avere un certo agio nel trattare di questi temi. Evidentemente mi pare che una risposta di questo tipo possa essere rassicurante sul punto, no? Purché sia coerente all'analisi che uno va facendo, quell'uso evidentemente è un uso legittimo, anche perché abbiamo visto che non è poi così categorica come il Mitterauer la data, la indicazione, ma invece ha molte sfaccettature, come c'è sicuro il nostro amico sociologo. Io appunto, siccome non immaginavo di fare della sociologia nella ricerca della definizione, evidentemente confesso tutta la mia ignoranza per quello che riguarda la letteratura sociologica, recito tutti i miei colpi che voi volete, io recito insomma, dico la verità, è vero, io non, questa informazione sociologica non ho, ho questa sensibilità a fare uno sforzo, a trovare un linguaggio comune, del resto l'avevo anche annunciato programmaticamente io più di una volta, questo bisogno che sentivo io personalmente almeno abbastanza profondamente. Quello che io che tipo di risposte potrei dare? Non so, dovrei riprendere l'appunto che mi sono fatta via via che ognuno di noi parlava questa mattina, o parlare invece, come Piero vorrebbe, delle esperienze concrete che abbiamo fatto al riguardo. L'appunto l'ho perso, le esperienze concrete sono rimaste però, perché il mio punto non c'è più, dove è andato? Avrai mangiato. Ma no, scusami, ce l'avevo mio qua, c'è, i miei foglini erano qua, io adesso non ce l'ho più. Forse è volato via. No, invece io preferirei proprio che ognuno di noi parlasse di questa esperienza, visto che tra, diciamo, del problema organizzazione sociale, rapporti col potere, ci siamo occupati un pochino tutti, sarebbe bello per gli ospiti che ci hanno ospitato di dare il senso di in che direzione vadano queste nostre esperienze concrete, ecco, non vorrei essere io la prima a parlare. Sì, se qualcuno gentilmente si offre a questo giro di orizzonte sarebbe credevole, se no facciamo altro, ma andiamo anche a parlare di qui, dovete dire anche voi, non lo so, non c'è niente di costituito. Per esempio, non è che io voglio poi sollecitare noi, c'è un discorso che potrebbe fare benissimo Sergi, che è quello che ci è mancato all'ultimo perché lui era malato a Marina di Massa, che era proprio in questo senso, che tu facevi su Torino. Per esempio, ecco, sarebbe preziosissimo che tu questa esperienza cercassi di indicarla nelle sue linee essenziali metodologiche per noi tutti, diciamo, perché a noi è mancata la possibilità quest'anno di sentirti. Se volessi cominciare tu sarebbe molto bello. Io comincio volentieri, anche se credo di che convenga in questa sede fare una correzione profonda rispetto alle cose che volevo dire a Marina di Massa, nel senso che il discorso che dovevo fare a Marina di Massa era uno sviluppo sui problemi, in un certo senso era un lavoro su che cosa può significare il fatto che una città non riesca a caratterizzarsi come sede di nuove attività economiche emergenti, e che quindi nei secoli che in altre sedi modificano tutto sommato le caratteristiche dei ceti dirigenti cittadini, nel senso che i ceti dirigenti cittadini diventano prevalentemente ceti mercantili, o c'è un urbamento dal contado che modifica però anche in parte l'attività di coloro che si inurbano. E qui mi infilerei in un discorso che è quello anche troppo noto di questo problema dei rapporti fra città e campagna per quanto attiene a quegli strati sociali che sono ritenuti i più caratteristici e della città e della campagna, un discorso notissimo. Ecco, io su Torino volevo sottolineare certe caratteristiche che ha questa città in quanto città che è sempre stata collocata in una direttrice di transito di importanza europea, ma è sempre stata anche e soprattutto un luogo politico. Quindi questa città, che in realtà fuori del Piemonte è considerata una città di una qualche importanza, di una qualche consistenza, che in realtà chi di storia piemontese si occupa sa benissimo essere invece una tutto sommato delle città meno rilevanti del Piemonte, non so, Bordone può dirlo, è chiaro che Asti, Vercelli, questi altri sono comuni di un qualche significato nella storia piemontese. Torino no, indubbiamente Torino no, e Torino si vede addirittura scavalcata da Chieri, collocata sulla stessa direttrice di transito con una grossa capacità di esprimere un gruppo sociale significativo di mercanti, di produttori anche, di tessili soprattutto. Ora io volevo impostare questo discorso per sottolineare che cosa? Cioè per sottolineare come tutto sommato si inneschino delle capacità di sopravvivenza di un centro fondato su cose che noi chiameremmo con una certa approssimazione, facendo qui una una posticipazione, non schiaffando il Medioevo in un fumoso generico pre-capitalismo terziario. Cioè Torino è una città che ha molto questa caratteristica di usare delle inerzie tradizionali di scelta di questo luogo come meta per i poteri politici che vogliono dominare tutta la regione, e quindi la cosa su cui volevo attrarre l'attenzione è il fatto che si innescano delle attività che sono strettamente connesse con questo, perché è ovvio che una cancelleria va lì, è ovvio che un certo ceto notarile fiorisce soprattutto lì, è appunto quello che noi siamo abituati cioè una sorta di ceto medio di intellettuali che è più a Torino che non altrove, e questo però non determina affatto né una maggiore consistenza demografica di Torino né un suo aumento di importanza dal punto di vista politico locale. Tutto sommato, anzi, con questa caratteristica, in cui concludo col riferimento a cose molto più precise che volevo dire a Bagni di Lucca, a Marina di Massa, scusate, è il fatto che in realtà però il comune, cioè le potenzialità di organizzazione autonoma sono duramente coartate da questa situazione. Cioè Torino paga duramente questo fatto di essere sede privilegiata prima di poteri di carattere più schiettamente tradizionali legati a un concetto di ordinamento pubblico. Mi riferisco al Ducato Longobardo, mi riferisco al Comitato Franco e soprattutto mi riferisco alla Marca di Torino. E poi di essere quasi subito dopo, l'obiettivo prima e sede dopo delle ambizioni di coloro che tendono a costruire dei principati territoriali più ampi, che evidentemente quindi cercano una mediazione ma per fasi brevissime con la realtà comunale autonoma che sorge un po' nei rapporti con il Vescovo, ma poi finiscono effettivamente per coartarla, insomma, perché di fatto la connotazione prevalente è quella di tenere da parte di coloro che contano nella città di Torino, di tenere buoni rapporti con questo potere territorialmente rilevante che esprime una forza tale e con cui si contratta, insomma, si contratta tutto sommato su posizioni di debolezza e non di forza. Piuttosto, ecco, quello che potrei aggiungere, credo così di aver dato quale di una problematica che in realtà è più una problematica di carattere, direi, socio-territoriale, no? Che non proprio di stratificazione sociale. Potrei aggiungere il fatto che questo in che cosa si inserisce con temi che noi abbiamo toccato oggi, anche se li abbiamo toccati prevalentemente in una prospettiva che tendeva molto spesso a essere di storia comunale in senso stretto. Questo si inserisce nell'interesse che sto coltivando attualmente per quanto riguarda i modelli di comportamento nuovi e il reclutamento nuovo che una certa aristocrazia militare di area piemontese nella fase della dissoluzione definitiva dell'ordinamento carolingio, quale caratteristiche ha, cioè che rinnovo dei ranghi c'è, e soprattutto una volta analizzato questo rinnovo dei ranghi quali modelli nuovi di esercizio del potere emergono da questo ricambio. È un ricambio che a mio avviso è interessante perché ci sono vistoso l'esempio dei Savoia, cioè di una famiglia che proviene dalla Borgogna. Provenire dalla Borgogna vuol dire provenire da una zona in cui tutto sommato si erano già abbastanza collaudati dei modelli di esercizio del potere nati al tempo della dissoluzione del Regno di Borgogna sono già dei modelli di poteri intermedi, cioè sanno essere dei poteri che non sono più i poteri che si richiamano soltanto alla forza legittimante del vecchio rapporto con il regno, e sanno essere in un certo senso non ancora un qualcosa di completamente nuovo. Sono dei modelli di potere che usano quanto di legittimante può loro provenire da una tradizione di tipo comitale indiscutibile, e sanno però usare anche molto bene ad esempio delle prospettive territoriali nuovissime. Nessuno di questi, ecco, un equivoco grosso che c'è nella tradizionale erudizione subalpina, un equivoco grosso è quello che i Savoia, affacciatisi in Piemonte, immediatamente mirino all'eredità di tutti i vecchi distretti pubblici del Piemonte. Non è vero affatto, i Savoia non ci provano neanche perché sanno benissimo di non avere la forza di gestire una cosa del genere. loro in realtà mirano soltanto a rivendicare un'eredità rispetto ai vecchi marchesi di Torino in funzione puramente legittimante, ma non in funzione di rivendicazione territoriale. Quindi si collegano a un titolo e a rapporti con centri di potere legittimanti che avvertono appunto come tali, cioè come legittimanti, ma si guardano bene dall'avanzare delle rivendicazioni territoriali di tipo più ampio, che anzi è in queste operazioni di avanzamento territoriale che si vedono i connotati più nuovi. Connotati nuovi che sono quelli di riuscire con grande prontezza a tener conto di concreti rapporti di forza con nuclei di potere locale e di direttrici di espansione vistose come quella della strada di Francia, della via Francigena di cui io mi occupo. E quindi questo che cosa implica? Su un livello sociale che sia al di sotto proprio dello strato della fetta più alta dell'aristocrazia militare di tradizione funzionariale, implica una cosa abbastanza interessante che si ricollega secondo me al discorso da cui sono partito, cioè implica questo allevarsi uno strato sempre più consistente di fedeli, i quali hanno una duplice caratteristica che si riassume o nelle stesse famiglie o una caratteristica in una famiglia e una caratteristica nell'altra, e cioè allevarsi uno strato di fedeli i quali in parte sono importati dalla Borgogna, in parte sono reclutati localmente. Le due caratteristiche a cui mi riferisco sono quelle, da un lato, di essere dei potenti già oggettivamente riconosciuti a livello locale, cioè dei nuclei di potere che erano cresciuti al tempo della graduale dissoluzione dell'ordinamento pubblico, con cui occorre fare i conti e con cui quindi occorre allearsi, da un lato. Dall'altra però cercare quasi di resuscitare quegli altri gruppi, quegli altri potenti, quelle altre famiglie, le quali avevano nella gestione precedente delle incombenze di tipo funzionariale minore, quindi visconti, quindi custodi delle chiuse, cose di questo genere, i quali sono seguiti con particolare attenzione da questo nuovo potere in espansione, perché appoggiandosi e potenziando al tempo stesso questo strato di potenti di fatto, che però a differenza degli altri hanno una funzione tradizionalmente gestita dalla famiglia, sono anche una legittimazione dal basso, una sorta di corrispondenza a quello che dall'alto i conti di Moriana assumevano proclamandosi eredi del vecchio ordinamento pubblico. E quindi ecco che il graduale definirsi di un modello nuovo di esercizio del potere da parte di quest'ultima ondata di aristocrazia militare alpina nella fase della dissoluzione si accompagna all'ingrossarsi delle file di un ceto che, appunto, io in quel discorso di Maria di Massa volevo molto collegare a Torino, e che poi sarà quello a cui in futuro, quando ormai lo Stato territoriale sarà costruito, a cui si attingerà per nominare Castellani e per ricostruire un apparato che nel frattempo lo si dissolve, ma già si procurano, se non altro, le forze sociali per ricostruire. Posso? Visto che siamo entrati in Piemonte, già da nel Piemonte, così io volevo aggiungere qualcosa. Se a Torino il comune non ha questa rilevanza né politica e in fondo ha questo aspetto sociale del tutto particolare, il caso che ho studiato, che studio io invece per il Piemonte, cioè Asti, è senz'altro un caso diverso, perché Asti si afferma veramente come comune, cioè come potenza territoriale di vasto respiro, e il problema di estremo interesse e che penso che possa avere anche attinenza con quanto abbiamo trattato stamattina è proprio la formazione di questo gruppo che alla fine dell'XI secolo riuscirà a raggiungere il potere. È un problema come più vasto problema nel quale si pone, cioè delle origini comunali, che senz'altro lascia così il problema di quelli che fanno paura veramente. A questo si aggiunga il fatto che per Asti le fonti, specialmente più antiche, sono molto scarse. Però io ho cercato di cogliere almeno alcune linee di tendenza per poter interpretare questo fenomeno, come cioè da una città vescovile stretta egemonia vescovile si passi molto presto, perché in fondo i primi consoli sono attestati nel 1095, quindi è proprio tra i primi, ad un sistema che a buon diritto si definisce comunale. La situazione di Asti nel contesto delle origini comunali, secondo me, si pone in maniera abbastanza diversa da quanto tradizionalmente si reputa, e anche qui in questa piccola polemica nella polemica verso quelli che possono essere i modelli. Nel tradizionalmente si utilizza Milano come modello di sviluppo comunale, di storia comunale. Milano vuol dire l'arcivescovo, Milano vuol dire quelle certe componenti, fra le quali una delle principali è data proprio dalla clientela vassallatica del vescovo all'interno della città, e quindi tutto uno sviluppo connesso fra questa conciliazione tra elementi di estrazione mercantile o di piccoli proprietari e la classe, in questo caso senz'altro se posso parlare di la classe dei vassalli vescovili. Per Asti, e questo mi pare proprio un elemento di estremo interesse, la questione non si pone in questo modo, perché ad Asti, e questo ritengo di averlo assodato, nella città non vivono e quindi non partecipano al governo della città per tutto l'undicesimo secolo, ma anche poi nel dodicesimo e direi ancora più tardi, i vassalli del vescovo. In altre parole, realtà cittadina, e poi vedremo di che cosa si tratta, e realtà extraurbana, rappresentata appunto dai detentori dei castelli vescovili, cioè dei vassalli del vescovo, hanno pochissima comunicazione fra loro, e che tenderà sempre di più nel passaggio dal X all'XI secolo a delinearsi proprio come una distinzione sempre più netta. Che cosa c'è, chi c'è in città allora? Che cosa è la città, da chi è abitata, da quali forze rappresenta? Ci sono i mercanti, presenze mercantili ci sono già in età carolingia, presente, ripeto, la documentazione è talmente povera che appunto ci limitiamo a constatare delle presenze. Avvertiamo, laddove la documentazione si arricchisce un po', fra il IX e il X secolo, presente di, chiamiamoli, ceti eminenti in questo senso, rappresentati o da un funzionariato minore del conte cittadino, da funzionari di tipo cittadino, scavini, giudici, notai, che tendono però a convergere verso il vescovo che è in fase di ascesa. Con la scomparsa, il crollo definitivo e la scomparsa del conte, non solo dalla città ma dall'intero comitato, perché poi si esaurisce questa famiglia comitale, il vescovo assume una posizione di rilievo, di primo piano, ripetiamo cose già note a tutti, con gli Ottoni ottiene questa giurisdizione sulla città e sul territorio attorno alla città. È chiaro però che nell'amministrazione della città il vescovo senz'altro è aiutato e accompagnato da una presenza cittadina. Una presenza cittadina che ci pare di cogliere in maniera abbastanza precipua all'inizio dell'undicesimo secolo, quando si parla di conventus hominum, cioè c'è proprio un accenno a qualcosa appunto che dovrebbe essere un elemento in qualche modo collegiale attorno al vescovo. Parallelamente però negli stessi anni ritorna quell'elemento, diciamo, che era così spia di una realtà economica non meglio dimostrata dalla povertà delle fonti, invece ritorna con tutta evidenza proprio nell'ultimo dei privilegi ottoniani, in cui vengono fatte delle concessioni dall'imperatore specificamente a favore dei mercatores civitatis. Quindi questi mercatores si configurano come un gruppo sociale di una importanza, direi, rilevante, talmente rilevante che un trentennio dopo, cioè 1037, ritornano, e mentre alla fine del X secolo era evidente che il vescovo fungeva in fondo da tramite fra questo gruppo, questo gruppo sociale di mercanti e l'imperatore. Nel 1037 invece direi che la posizione del vescovo è in un certo senso superata, perché i diretti fruitori del diploma imperiale sono proprio i mercanti. Questi mercanti che con ogni probabilità stanno raggiungendo, anche dal punto di vista economico, una potenza notevole, uno sviluppo notevole. Sappiamo da fonti indirette che da questi anni fino alla fine dell'undicesimo secolo i commerci si stanno dilatando su scala molto vasta, su scala europea. Asti gioca questo ruolo fondamentale di tramite fra Genova da una parte e la Francia, tant'è che appunto per Genova ha un'importanza fondamentale la presenza di Asti, proprio in quanto smista i prodotti verso la Francia e in quanto fa convergere su Genova quello che invece dalla Francia viene. Quando troviamo costituita, cioè quando troviamo al potere una classe che con ogni probabilità possiamo in gran parte identificare con il gruppo mercantile, ripeto con molta probabilità perché anche qui le fonti sono molto povere, però noi sappiamo che quelle famiglie che partecipano al comune dei primi decenni del XIII, del XII secolo, sono famiglie che 50 anni più tardi hanno i loro rappresentanti alle fiere di Champagne, hanno i loro rappresentanti sparpagliati ormai per l'Europa in qualità di mercanti, allora io direi che possiamo essere quasi sicuri che il nucleo originario è rappresentato da quella categoria, da quella classe che nel corso di un secolo ha raggiunto la maturazione fino a avere il potere nelle sue mani. D'altra parte rimane a pé, quindi direi una situazione abbastanza diversa, abbastanza originale rispetto ai modelli tradizionali, cioè rispetto a Milano. La domanda viene spontanea e i vassalli del vescovo? I vassalli del vescovo ci sono, ma sono, ripeto, al di fuori della città. Cioè probabilmente qui il ruolo di centro di scambi a largo raggio, ecco, a lunga gittata, cioè Asti non si configura mai come un mercato locale o come una fiera locale, ha questo ruolo, i suoi cittadini hanno questo ruolo in fondo di tramite su scambi a vasta gittata, però in questa forma, come direi proprio specificamente urbana, ha fatto in modo che non ci sia stato un afflusso, una presenza da parte di quei vassalli del vescovo che invece erano sempre lasciati in un certo senso al di fuori della realtà cittadina, perché avevano degli interessi nel contatto, non sono mai riusciti a realizzare degli interessi sulla città. E direi molto interessante vedere come poi all'inizio del XII secolo, cioè nei primi decenni di sviluppo, di decollo del comune, il comune che con il suo vescovo ha avuto rapporti abbastanza diversi, ma fondamentalmente mai un'opposizione violenta, proprio perché non aveva, diciamo, questo tramite dei vassalli, cioè una presenza ingombrante di vassalli. Il comune riesce addirittura appunto a contrattare un allontanamento di certe presenze nella città, o perlomeno, non violentiamo troppo i documenti, anche qui nei diplomi di protezione che il vescovo concede a un monastero cittadino, fino all'inizio del XII secolo sono sempre presenti vicino ai consoli della città i vassalli del contado, cioè è chiaro che sono vassalli del contado perché i loro predicati sono di castelli situati nel contado. Da un certo punto, cioè verso il 1130, i testimoni per la parte del vescovo, cioè quelli che sottoscrivono in città a favore di questo monastero cittadino insieme con i consoli della città, non sono più vassalli del contado. Cioè sono dei personaggi che peraltro ci sfuggono, ma le cui indicazioni di carattere toponimico o predicativo senz'altro ci dimostrano che questa gente abita o in qualche modo vive nella città. In altre parole, quello iato, quella spaccatura tra città e territorio, che era già un dato caratteristico dell'undicesimo secolo, con il comune direi viene ancora maggiormente evidenziato. per cui le famiglie che poi alla fine del XII secolo rappresentano diciamo l'aristocrazia comunale sono famiglie fondamentalmente non legate al vescovo in precedenza, e se qualcuno invece arriva dall'entourage vescovile è comunque una famiglia non extraurbana ma cittadina, cioè questo mi preme sottolineare questa caratteristica rigidamente cittadina che il comune conserverà anche più avanti. All'interno di questa classe e all'interno direi del contesto più vasto del mondo comunale artigiano, parlare di stratificazione sociale è veramente molto difficile, almeno per il XII secolo, perché il populus in quanto tale compare alla metà del 200. Una cosa, e di qui direi il discorso è aperto, e anzi ho piacere di presentarlo proprio in questa sede, è questo. Alla metà del XII secolo, alla indicazione generica consules vengono aggiunte delle specificazioni, cioè i consuli, la magistratura consolare si articola in tre sottogruppi: il consules civitatis, il consules justitiae e il consules populus o populi a seconda come. Ecco, che cosa significhi in questo momento, in questo contesto, in cui l'articolazione sociale della città non si è ancora manifestata in altre fonti in quel modo, cioè non è ancora diventato parte, ma non è ancora neanche, diciamo, non è ancora emerso nella documentazione un populus distinto dall'indicazione generale comune et populus che dà, oppure solo populus, la concio populus, che dà l'idea di essere veramente comprensivo dell'insieme della compagine comunale. Il fatto che subito dopo l'avvento del Barbarossa compaia questa indicazione specifica populus, io confesso, è un'indicazione che mi lascia per il momento perplesso, cioè sulla quale non sono in grado di dare una spiegazione. È evidente che è senz'altro un'indicazione stimolante, perché anticipa di molto delle tracce che noi ritroviamo solo più tardi. E anche un'analisi, diciamo, prosopografica dei personaggi che ricoprono questo incarico di consoli del popolo lascia molto perplesso, perché senz'altro non sembra essere specificato. Non sono le arti. Com'è? Non sono le arti. Sono le medesime persone che possono un anno essere consoli del popolo, l'altro anno essere consoli del comune, l'altro anno essere consoli di giustizia. Io però in questo caso ricorderei i consoli del civitati sono il consoli del comune, il sì. Consoli del popolo e il consoli della società delle arti, come avviene. E poi sono sempre gli stessi che dicono lo stesso. No, sono un altro discorso, sono le stesse persone, però. Questo che voglio dire. Due ecco, ma il fatto che siano le medesime persone, cioè, quindi ormai il dubbio sul consolo del popolo. Ma il consolo di giustizia c'è anche a Genova una cosa del genere, mi pare non faccia una grande difficoltà, perché in fondo è una specificazione, come dire, di tipo ufficio, ecco, di ufficio, c'è una funzione. Sì, sì, no, ma per i consoli di giustizia non ho problemi, questi del popolo mi lasciano molto più perplesso, perché siamo molto vicini al momento in cui con il termine populus si intendeva ancora l'insieme di tutto della compagine comunale. E siamo ancora parecchio lontani dal momento in cui il populus si configurerà come gruppo sociale. Ecco, tu adesso mi dici possono essere quelli delle arti. Ripeto, manca ogni altra indicazione nelle fonti relative alle delle arti, se c'è un'organizzazione per quartiere. Mancano anche qui ogni indicazione, cioè veramente abbiamo questo relitto che lascia aperta ogni possibilità. E questo direi è il punto in cui siamo un po' arrivati nella ricerca sulla struttura sociale in Asti, cioè questo sviluppo del potere, cioè in questo comune che è senz'altro di origine mercantile e che poi, ecco, sarebbe poi molto più interessante sviluppare il discorso più avanti, cioè nel 200, quando cioè queste famiglie che sono mercantili diventeranno un'aristocrazia in senso un po' più stretto, e cioè avranno anche delle prerogative di carattere signorile ma questo per quel fenomeno che poi si verifica nella seconda metà del 200, per cui i mercanti arricchiti comprano dal vescovo, comprano dalle famiglie dell'aristocrazia del territorio indebolita dei poteri signorili. Veramente si configura come qualche cosa, direi, che viene costruito successivamente su una base economica di prestigio che ha avuto un suo sviluppo però nel campo, nel mondo mercantile. Era la domanda poi che ti volevo fare io, sì. Questo ceto signorile non preesisteva ad arti in tutto il territorio artigiano indipendentemente da quello vassallatico? Cioè non si dà il caso, come si dà altrove, come si dà da noi per esempio, che il ceto signorile e mercantile siano la medesima cosa ad un certo punto, cioè il signore è mercante, ma qualche volta è anche giudice imperiale. Vedi, cioè, il fatto è questo. Veramente un dopo mischio, estremamente anche come vocazione politica, certo, prima di orientare. Ecco, l'impressione è questa, come dicevo prima, che gli uomini che fanno il comune stanno in città o hanno possessi fondiari nelle immediate vicinanze della città. I signori locali, legati o no con il vescovo, stanno al di fuori di questa area e hanno i loro castelli nel contado. Non c'è nessun cittadino, console, podestà, che abbia un castello nel territorio, per esempio, o che abbia diritti signorini nel territorio. E quando c'è, cioè quando questo succederà, diciamo che nella maggioranza dei casi siamo in grado di stabilire che questo è diventato dominus o perché ha comperato, o perché ha ricevuto impegno su prestito un castello e la signoria connessa e di conseguenza si è insignorito, ecco. Cioè è stato, diciamo, un atto di carattere finanziario che lo ha fatto diventare signore. Se ne parlo soltanto perché il termine, il paragone può essere utile da questo punto di vista, diciamo, la opinione tradizionale che ci sia, che debba essere connesso una presenza attiva e economicamente attiva nella città con una immigrazione dal contado, o che una vocazione signorile, politica signorile, è un'indicazione politica signorile nel contado non comporta una contemporanea presenza nella città. Ecco, questo è uno degli ostacoli che ho dovuto superare io, per esempio, anche per te. Io ti posso dire che se volessi andare a cercare un momento nel quale questi signori del territorio si inurbano non lo troverei mai. Dalla prima tentazione loro sono pisani, longobardi e pisani. Curiosamente questa loro qualificazione signorile, perché longobardi indica il ceto signorile, è collegata con quella di essere pisani da sempre. Ecco, e nella città, capisci, loro finché possono, io ne ho accennato in questo senso nel mio lavoro per parlare delle esperienze concrete, certo. Loro la loro complessa vocazione politica la portano avanti finché possono. Fanno i signori nel contado e i circoli della città e fanno i finanzieri, fanno, ecco, gli amatori, ma vedi che qui la differenza. Ecco, ti voglio dire, cioè questi non sono mai signori, cioè quelli che fanno parte del comune, a parte la terminologia, cioè proprio dominus non esiste, il termine dominus all'interno delle liste dei consigli. Non è dominus, cioè vengono chiamati, dominus viene usato esclusivamente come titolo di rispetto. Cioè dominus è dominus potestas, dominus sono i giudici, ma in quanto giudici, non in quanto appartenenti a una famiglia signorile. Sì, sì. Cioè da noi l'impressione che si ricava è che siano i mercanti a diventare signori e non i signori a diventare mercanti. Cioè sono i mercanti arricchiti che a un certo punto, alla fine del 200, saranno domini, ma in quanto hanno acquisito dei diritti signorili. Ecco, io avrei molto imbarazzo a dare una priorità all'una delle due cose, perché effettivamente li controllano contemporaneamente, giocare su due fronti finché possono li tengono. Ma il periodo cronologico è diverso. Finché non c'è contraddizione, no, diverso. I diritti devono dire. Io sto parlando del periodo comunale, questo. Sì, vabbè, ma dodicesimo, tredicesimo, non c'è nessun cittadino che continui ad esercitare una signoria. No, ma io mi riferivo inizialmente a queste persone che nascono mercanti, non so se rendo l'idea, bisogna vedere, ecco, sulla loro origine. Intendo dire l'origine, certo, della loro ricchezza, non so se è certo, perché poi certo, in qualche modo è un discorso di questo tipo, non si può sapere nulla di più. Senz'altro, ma tu capisci perché che le attestazioni più antiche di questi mercanti, lasciamo perdere quelle carolinge, sono alla fine, cioè alla fine del X secolo, questi sono un gruppo sociale molto forte in città, al punto da venire menzionati nei diplomi imperiali. Cioè vuol dire che questa gente è in grado di obbligare il vescovo a farsi ricordare dall'imperatore. Nella prima metà dell'undicesimo non hanno neanche più bisogno del loro vescovo, a un certo punto, per farsi ricordare dall'imperatore. È chiaro che questa gente è mercante, io non ho gli elementi, ripeto, per poter dire che possa anche essere signore nel territorio. Non ho gli elementi, onestamente mi manca. Il sospetto è quello, se non di fatto però collegamento che... impressionato per questo collegamento imperiale, il sospetto viene, evidentemente, per questa solidarietà, diciamo pure col vescovo, il quale è signore nella città. Perché. Sì, ma tu capisci che anche i cremonesi. No, per carità, non è che voglio. Voglio dire, Gabriella, anche i cremonesi godono a un certo punto di questo rapporto privilegiato con l'imperatore e contro il vescovo, però quei cremonesi non sono domini. Sono veramente cide, sono dell'ambiente cittadino, e l'impressione è che questi artigiani che diventeranno poi consoli del comune siano in una situazione non molto dissimile da quei cremonesi che sono in antagonismo, come tutti sappiamo, con il loro vescovo, che strappano all'imperatore quelle concessioni che vengono poi impugnate dal vescovo. Voglio dire, un ceto assomiglia moltissimo ad altri, non assomiglia per niente perché effettivamente il fatto di non trovare mai un'indicazione di luogo di provenienza è quello. Mi dava l'idea che non erano dei signori del contatto. Trovarne almeno uno, io sono da ricco, anche prendendo soltanto le cappelle gentilizie che ricordano appunto queste famiglie che erano già importanti nell'undicesimo secolo, perché le ritroviamo questi nomi già nell'undicesimo secolo. Una ventina di nomi, non ce n'è uno che abbia, non sia un da Salo, un da Panico, eccetera, cioè quelli arrivano dopo in città. Sì, sì. E molto spesso arrivano perché comunque. Io devo dire che c'è una cosa da capire, cioè ci sono delle persone che trovi nell'attività mercantile o nell'attività comunque economica cittadina e che insospettati come signori, poi lo scopre perché abbiamo quel caso fortunato di quello del Val di Sesia, nel quale sono chiamati a un occupare di titani persino il vice comites, non so se rendo l'idea. Sì, sì, è molto interessante. Quello, ecco, dove evidentemente però non hanno neppure il nome della signoria da cui provengono, nonostante che noi li conosciamo come quelli. Noi sappiamo perché abbiamo ricostruito le genealogie che sono loro. Solo per quello lo sappiamo che sono loro, perché i figli quandam veriti, qui non ho alcun luogo di provenienza, ma i figli quandam veriti sono i da Caprona. Il cognome da Caprona, dalla signoria che tengono, gli viene un secolo dopo, però io per questo non posso dire che non ce l'avevano quella signoria, quando il primo atto loro del 1051, e sono ancora detti figli oro quandam veriti, è erogato proprio nel castello di Caprona. Ecco, lei ma quella è già una... Ma invece quando tu non trovi questa espressione, certo. Ma soltanto il proprio... Ma poi è una spia la presenza di un atto rogato in un castello, è una spia il fatto che loro... Ma questo altrove, non in quello stesso contesto. Che poi però loro più tardi conservino, comunque riprendano questo titolo extraurbano. Queste famiglie invece, secondo me questo ai fini, diciamo, poi della costituzione sociale, della compagine comunale, è poi lo stesso, a mio parere. E cioè se anche... Poniamo pure che questa gente molto, molto, diciamo, presto si sia inurbata e che fosse stata originariamente, io continuo ad avere i miei dubbi, ma appartenenti alla signoria locale, è chiaro che però una volta che sono poi entrati nella città non hanno più nessun rapporto, quindi non sono più signori. No, ecco lì il discorso, allora, perché non compare più nessun legale sul territorio. Per questi che dico io diventa obbligatoria, cioè quando non riescono più a portarle avanti tutte e due, perché altrimenti la situazione è troppo esplosiva e succede addirittura la guerra civile, ad un certo punto loro fanno quella scelta politica per la quale io dicevo questa mattina, che vengono in classe politica, in cui fanno predominare gli interessi comuni su quelli che singolarmente li avrebbero portati invece nei limiti del possibile a tenere vivi anche con gli interessi. Certo, ma questo avviene molto presto da te. Molto presto, questo. Sai, ad Asti l'aristocrazia del contado viene costretta ad entrare nella città, insomma sottomettersi alla città, alla fine del 200, e ha scarsissima fortuna, cioè le famiglie rilevanti. Anche da noi questo è un altro non sono le famiglie, che vengono dal contado. Al momento del costituirsi. Per esempio Giuseppe adesso ne ha parlato, per gli accenni che ha fatto, come di un gruppo molto misto, questo che originariamente per comune, misto e solidario, ma questo è molto importante. Questo a Torino, però. Molto, molto importante. La realtà torinese è diversissima. Torino, il comune di Torino è pieno di gente che è di Decaburreto, derivalta molto precocemente, e rivalta sono dei signori importanti, è tutto diverso. Ad Asti invece, non la trovi uno che non abbia un'indicazione di provenienza, un toponimico di quel genere. Allora avevano tirato fuori decidità. Sono quindi almeno due modelli ben chiari. Secondo me poi ce ne saranno più di mille, certo, uno è quello pisano che è molto convincente, certo, è molto convincente, e un altro è sicuramente Asti e Bologna identico, che no. Ma ce ne sono due. E io poi penso Cremona, penso in qualche modo Mantova almeno, cioè, secondo me c'è una casistica anche, diciamo, in questi che non rientrano nel modello milanese o nel modello italiano. Allora, io credo comune mercantile la definizione di questo genere, perché tu hai messo giustamente dei grandi mercanti, infatti, e anche a Bologna immediatamente il lato costitutivo, il diploma, concesso dall'imperatore, ci sono due categorie. Una sono i mercanti e l'altra sono i turisti. E quello può essere una cosa, non dico tipica di Bologna, perché i turisti trovano un po' dappertutto, però a Bologna c'è tutta diciamo sempre la questione di studio, eccetera, eccetera. Questi turisti che sono sempre in primo piano, quando non saranno i turisti, saranno i notari. Noi a Bologna abbiamo un caso, direi che è abbastanza unico, di un quasi signore della città che è un notario, Rolandino Pasquitelli. E la cosa si spiega soltanto per l'importanza che ha la categoria dei notari in una città come Bologna. Che oltretutto è, qui mi riallaccio in questa analogia con Asti, anche ad Asti Pissore recentemente l'ha messo in luce, l'importanza del notariato, cioè l'importanza politica del notariato, e secondo me si riallaccia al fatto mercantile, cioè di questi mercanti che hanno bisogno dei loro notai per rogare i loro atti. Ci sono delle convergenze. Vorrei dire una cosa però, perché apparentemente non lo so in che misura sia possibile da fare voi l'analisi familiare ma minuziosa. Ecco, però ti voglio dire una cosa, che apparentemente, cioè da una fonte la più significativa, perché già è significativa nel senso che ti dà l'indicazione già di un'attività all'interno di una organizzazione politica, tu puoi cavare l'impressione che all'interno di questi loro siano connotati, mettiamo, come mercatore, quando hai fatto uno sforzo di ricostruzione genealogica fino alle punte, diciamo, di tutta la famiglia, allora tu ti rendi conto, come è successo a me a Pisa, e non me lo aspettavo, cioè singolarmente te ne rendi conto dal contrappunto, dall'analisi comparata che tu puoi fare, tu ti rendi conto che non soltanto questi sono sempre stati civici, ma erano contemporaneamente signori. Non soltanto loro nella città si conoscono in un certo tipo di organizzazione politica e fanno un certo tipo di attività economica, ma ne continuano a portare avanti finché possono anche un'altra diversa altrove, e tu non immagineresti mai che si tratta dei medesimi se non hai fatto quell'analisi. Ecco, allora io vorrei dire, se è persuasivo, potrei fare un lungo discorso sulla complessità e le tappe, diciamo, di questa evoluzione fertile. Se quello che io dico è persuasivo, allora vuol dire che quel tipo di analisi fatta per gruppo familiare, tanto più che noi sappiamo che questi gruppi familiari hanno poi una fortissima capacità di coagulazione in funzione politica, un'analisi di questi gruppi familiari può riservare delle sorprese molto grosse. Molto grosse. Ecco, allora io non lo so, se fosse persuasiva e se c'è il materiale umano per fare questo tipo di analisi, questo discorso veramente è una strada d'oro, se è sufficientemente persuasivo quello che... Infatti siamo tutti molto ansiosi di vedere. Intanto comprate il libro, questo è fondamentale, comprate il libro. Noi pensavamo se... Ecco, perché non si può, a volte, proprio perché c'è solo il nome, questo è il discorso, perché c'è solo il nome, non si sospetta, francamente, non si sospetta che si tratti delle medesime persone che devi giocare in contesti diversi, volevo dire questo. Invece l'analisi genealogica precisa, l'analisi patrimoniale, l'analisi del tipo dell'attività che svolgono comparativamente, che ti consente di coagulare questi gruppi, si può qui dare l'idea allora di un modo diverso di conoscere. Ecco, però semplicemente forse di questo invito io tenderei a sottolineare che occorre non avere questa impressione che è quasi inevitabile che si arrivi a un tipo di verifichiamolo su un ambito più vasto. Io però vorrei... a Torino è troppo evidente, sono la differenza totale. Io però vorrei fare una considerazione dall'esterno, no? Mi piacerebbe che ci fosse, ci fossero queste differenze che sono emerse qui e che appunto i diversi casi non fossero riconducibili a un'unica tipologia, proprio davvero. E sono convinto che sia così, tra l'altro, dall'esterno, quindi è una convinzione puramente impressionistica, ma insomma non importa. Ma allora in questo caso rimane sempre il problema di capire cosa cavolo è successo nel complesso. A questo punto, secondo me, viene fuori il problema che noi ci facevamo stamattina. Perché che questi qui abbiano un'origine mercantile, un'origine signorile, che siano prima mercanti, poi signore, prima signore, poi mercanti. Quel che conta, dal mio punto di vista, che credo sia legittimo, è quello di capire in che modo a un certo punto questi svolgono un ruolo costituzionale. Sono ceto dirigente, sono classe politica, sono quello che volete voi, bisogna intendersi su questo, bisogna scegliere le categorie esatte perché questi ci parlino. Però rimane il fatto che proprio per il fatto che hanno provenienze diverse, bisogna che noi riusciamo a trovare un minimo comune denominatore, un punto di raccordo, insomma un codice per leggerli, per decifrare quello che è il ruolo che loro hanno. Perché poi noi sappiamo, vi par di capire bene, che da un certo punto in poi questi punti lontani e divergenti confluiscono verso una soluzione che è concentrica. Ecco, io credo che tra i compiti dello storico ci sia anche quello di misurare e di tracciare tutte le linee, tutti gli archi necessari per coprire questo percorso che da punti eccentrici conducono a un punto centrale. In fondo questo è, in termini più semplici e forse più chiari, quello che io intendevo dire stamattina quando difendevo la necessità. Forse di... la città. Mi riferisco, no? No, forse ancora di più, forse anche lo stato territoriale a cui richiamava prima Sergi, che mi sembra effettivamente un punto. Questo tra l'altro spezzerebbe anche il discorso della continuità, o meglio, proporrebbe il discorso della continuità in termini seri e non meramente così di evoluzione fino a se stessa, insomma. E questo secondo me eliminerebbe anche un altro problema che a me veramente mi angoscia e che stamattina il Pini ha ancora tirato fuori, che secondo me, perdonami, è un falso problema, anzi un problema falsissimo, che è quello della democraticità o della non democraticità. Perché se ci sono delle categorie che sono a posteriori, che sono nostre, che sono ideologicamente connotate, tanto che non se ne riesce a dare definizioni in termini sociologica e politologica, a differenza di quel che si riesce a fare per esempio per i termini di ceto di classe, sono proprio queste categorie qui. E allora dico, insomma, pazienza, non occupiamoci, ne vediamo invece. No, sempre tutto lo stesso, perché se c'è quella classe, democrazia quella quell'altro, allora non ci siamo visti. Volevo anche dire un'altra cosa, di questo sforzo proprio l'ho fatto nel paragone con la situazione milanese, anche perché ci sono cresciuti sopra, e ecco, io veramente non esiterei a fare questo punto, perché ci sono cresciuti sopra, e ve lo leggerete perché non vale la pena di parlare di nuovo, vero? Ci sono cresciuti sopra, tra l'altro, due teorie storiografiche che danno un'indicazione diversa per l'origine del comune. Quella territoriale è nata sopra l'esperienza milanese, come quella privatistica, chiamiamo così, e volontaria e curata che ha detto il Volpe, è nato con la Pisana, con dei fraintendimenti profondissimi. Io ho cercato di mettere un po' in chiaro perché ci sono queste diversità iniziali e di struttura sociale e di organizzazione del potere, diciamo, che però poi confluiscono in un identico esito comunale. Ecco, ho cercato di dare queste ragioni e ho cercato anche, diciamo così, ma vorrei sollecitare il vostro parere a questo riguardo, di capire che cosa ha provocato questi fraintendimenti nell'interpretazione così diversa, diciamo, apparentemente, diciamo, antitetiche, poi in realtà non lo sono, delle origini comunali, quando per generalizzazione si sono basati o sull'esperienza milanese o si sono basati sull'esperienza. Ma poi appunto è stata perniciosissima, secondo me, questa esportazione del modello. Dei modelli, infatti, io cioè, infatti ho anche soltanto nel contesto così non ricadiamo nello stesso. Cerchiamo di evitare. Può esserci un elemento che in un certo senso può essere una prova dell'esistenza del, chiamiamolo il modello pisano, chiamiamolo il modello pisano per specificare, e c'è stato quello della conquista del contado. Deve dire, metteva giustamente in evidenza, che ci sono in certi contadi una conquista rapidissima, tanto rapidissima che forse non c'è mai stata, nel senso che il contado già apparteneva tra chi abitava in città, e questo prende bene proprio direi nell'esempio pisano, dove gli stabilità erano gli stessi che avevano anche il perché non si è mai trovato in distretto, quindi non si è mai trovato in distretto, il contatto ce l'avevamo di già, ma che scherzi, questi che erano di scuola. No, adesso non, direi che siamo... Mentre in altre città, la conquista del contatto non sia mai completa, ci sono tutte le formule intermedie, può darsi che guardando bene questo problema, dove effettivamente a un certo momento, attraverso appunto la documentazione cronaca eccetera, arriva il distretto, come lo vogliamo chiamare, del comune, e allora può darsi che noi riusciamo da lì a risalire qual era l'origine, diciamo, del ceto aristocratico che ha dato vita. Quando io ho parlato che non si forma il distretto Civitatis, ho inteso dire prima della creazione del comune, perché poi il comune ha un po' distretto che non ha distretto quando il comune è formato. Io mi riferisco che non c'è una vicenda analoga a quella dei comuni dell'Italia settentrionale, nel quale un comitato ha una disciplina giuridica diversa da quella della città e del suo territorio. Per Pisa il comitato è tutt'uno con la città e continua ad essere tutt'uno fino alla formazione del comune. Ecco, questo è il discorso. Adesso diamo la parola brevemente a Nobili, poi bisogna chiudere perché è un po' tardi. Nobili, dai. No, volevo dire che questa linea proposta da Pisa sul fatto che ci sono certe città che conquistano rapidamente il contatto, perché altre non le puoi certificare, sembra una linea interessante. Perché bisogna vedere anche che volte ci sono nei contatti. E quando si forma questo stato, non si va ai cittadini. Bisogna vedere dei contatti vari, così che volte ci sono. Se adesso prendiamo il fatto di per dire Genova, che pure si forma anche lì, e poi sono delle volte principesche, chiamiamole, che sono molto rilevanti sulle malattie, e quindi si formano certi contagi, certi stati più rilevanti, si formano in una certa maniera, perché ci sono forti, diciamo, alternative così, che ambiscono anche loro a formare certe forme statuali non prevedenti, in un certo punto lì che può entrare. Siamo in un ritardo, nella città come da Francia, che non si vede mica un comune così, perché non è una cosa di tale, vediamo che pur fino al 1693 si formano questi fatti e quelle malattie, ma proprio perché se non c'è la città che unifica il suo territorio, non forma volevo soltanto dare una conferma, mi pare che la strada indicata da Ivan sia molto buona, perché una conferma, e tu sai benissimo queste cose, di altri ne abbiamo già parlato, proprio il caso astigiano, non a caso quel distretto che è quello concesso dall'imperatore, in quell'area che non si identifica con tutto il contado, ma è una fascia di 7 miglia, non ci sono signorie locali. Non ci sono signorie locali, ci sono solo i possessi o del vescovo o dei cittadini. Quando il comune nel 1159 riceve dal Barbarossa la conferma della propria area di giurisdizione, ha esattamente quella fascia. Il suo contado da conquistare è al di là di questa fascia. Cioè c'è una perfetta coincidenza fra il districtus dove non ci sono signorie locali e il primo districtus del cittadino comunale, il districtus cittadino vescovile al di fuori delle signorie locali e il districtus comunale. E io richiamo di nuovo l'attenzione sul caso di Molise, che proprio perché è talmente tipico può essere veramente la chiave per interpretare le altre cose, dove si ha, a parte che il vescovo è una città, ma comunque a parte questo, dove si ha una città che conquista a un piccolo distretto, molto piccolo, e conquista un distretto del contato ancora molto piccolo, che non va più là dei 4-5 miglia, questo per cui è meglio era. E quindi dove rimane un contato completamente a uno, che non dipende da nessuno, che forma, anche altro caso tipico, un comune del contato. Credo che non esista da nessun'altra parte d'Italia dove c'è un comune, a Imola, un comune del contato dove tutti i consoli stanno in Imola, ma sono i consoli non di Imola che sta il suo comune, sono i consoli del comune del contado che raccoglie che raccoglie il territorio, i castelli anche. Tutto il resto che non è sotto la città. C'è l'astisio, quello. Quando c'era Castagnetti che voleva. Prima dicevi cos'è a un certo punto, che da esperienze diverse, da fili diversi che lo storico deve ricostruire, conduce, se ho ben capito quello che dicevi, a una realtà che in fondo è simile a un certo punto, prendiamo fine XII secolo, inizio XIII, in cui possiamo ricondurre dentro tutte le esperienze, e quando io ho fatto la battuta in fondo la città, credo che ci attorniamo veramente in merito, perché gli esempi possono essere moltiplicati. A me è capitato, ma il discorso l'ho già fatto, non credo sia il caso di ripetere, di fare un paragone tra due città molto diverse alcuni mesi fa, come Ferrara e Verona, che appartengono ad aree e tradizioni completamente diverse, e vedere come conformazioni e rapporti fra città e territorio molto diversi, non solo diversi Verona, perché Verona è più simile per certi aspetti al caso milanese e non assolutamente al caso astigiano, e Ferrara è diversa da tutte le città della Lombardia, alla fine ci si trova in una soluzione che, pur diversa nelle sfumature, può in qualche maniera essere avvicinata, che è quella della soluzione alla fine comunale, in cui certi aspetti si ritrovano abbastanza simili, certe magistrature sono abbastanza simili, certo modo di agire è abbastanza simile. Ecco perché dicevo che forse una spiegazione, ancora una volta, può essere data dalla città, non isolata, ma la città può essere quel contenitore, per così dire, in cui alla fine le esperienze diventano abbastanza simili. Anche perché si allargano a macchia d'olio, insomma, si allargano a macchia d'olio. Sì, è un elemento unificante alla fine, è il discorso poi che in fondo viene fuori. Sì, ha anche una situazione in fondo uguale, perché il territorio, la città anche materialmente è qualcosa che si assomiglia un pochettino l'una all'altra. Sono le mura, c'è una certa esperienza, c'è il peso. Va bene, io non lo so, credo che ormai a questo punto sia pericoloso aprire una seconda ondata di interventi, perché se avesse lo stesso successo di questa staremmo qui fino alle 5 e perderemo tutto il treno, e quindi direi che possiamo chiudere, no? A questo punto, e allora io vi ringrazio tutti per essere venuti qui, come ripeto spero che non sia stato del tutto inutile, vorrei ringraziare anche se solo formalmente, perché non è qui, questo povero Mitterauer che in fondo senza saperlo ci ha offerto la possibilità di ricordo, e magari rileggendolo dopo questa discussione di oggi, il saggio di Mitterauer chissà che non ci dica qualcosa di più di quello che non ci ha detto prima, perché credo che sia meno banale e meno rozzo di quanto qualche volta è stato stamattina detto. Allora grazie, adesso ci sono le macchine, credo sufficienti per portare in città quelli che devono andare a prendere il treno, così via.